un po' un appuntamento last minute anche a teatro, non si ferma nonostante lo stacco lungo, la rubrica in scena ed a presentazione, una imminente e una andremo un pochettino avanti nella seconda parte della rubrica stessa. L'organizzazione ERT, Teatro Arena del Sole, questa sera, sala TR Salmon, alle ore 19, Rinoceronti, è liberamente tratto dall'opera I Rinoceronti di Eugene Ionesco. Festina Lente Teatro, progetto Teatro e Salute Mentale, diverse sono le collaborazioni, la regia è di Andreina Garella che tra poco sentiremo. Partiamo da Eugene Ionesco, è un drammaturgo saggista rumeno che viene poi naturalizzato francese, le sue origini sono però un'intersezione che arrivano dall'est Europa, arriva a Parigi, prenderà nazionalità, ha una scrittura assolutamente colta, una scrittura di avanguardia. Nei miei ricordi le apparizioni grottesche assomigliavano ai personaggi di Bruegel o di Bosch, grandi nasi, corpi deformi, sorrisi atroci e piedi biforcuti. Queste sono le autocritiche, come lui definisce le sue narrazioni, e troviamo diversi lavori che sono anche di denuncia. Lui stesso si autodefinisce anarchico seppur conservatore, è un po' un ossimoro ma a suo modo di vedere tant'è, e riporta in questo lavoro, come ho detto, una critica alla società che arriva però a prendere dal basso quella che è una comunità che si vede invasa da una quantità di rinoceronti, e qua arrivano le immagini che ho descritto in precedenza, no? Beh, la critica è un adattarsi poi a queste figure enormi, imponenti, e pian piano assimilarne le caratteristiche negative in maniera inconsapevole ma quanto mai naturale. È una denuncia, se vogliamo, su quello che politicamente, socialmente viene portato da totalitarismi in maniera imposta, e come, beh, lo vediamo, no? La famosa rana che viene messa a bollire nell'acqua, all'inizio sta bene e dice: oh, guarda un po' come mi rilasso in quest'acqua tiepida, e piano piano poi ne viene totalmente cotta. E questo è il percorso dall'inizio alla narrazione dei rinoceronti in questa presenza che poi porterà una piccola comunità a essere totalmente asservita da quello che gli viene imposto e proposto in maniera totalmente naturale e anche senza portare la minima critica a quello che sta succedendo. Ascoltiamo un po' di musica con Lizzy Park e poi inizieremo la nostra conversazione con la regista Andreina Garella a proposito di Rinoceronti da ERT questa sera alle ore 19, Arena del Sole, sala TR Salmon. A tra poco. Dizzy Parks dalla Truth of A Taste of Honey. Prima di iniziare la nostra conversazione con Andreina Garella, mi è piaciuta nella biografia dell'autore, della scrittura da cui è stato ispirato Rinoceronti, Eugene Ionesco, ha portato come immagini la sua ispirazione a Hieronymus Bosch, questo pittore di metà Cinquecento olandese, no? Con queste figure molto particolari, anzi ne consiglio, sicuramente lo conoscete, però è un'immagine, sono immagini che da sempre mi hanno molto incuriosito, affascinato, se vogliamo anche inquietato. Intanto con la regista di Rinoceronti, Andreina Garella, iniziamo un pochettino ad entrare in scena. Allora, Rinoceronti è un testo di Ionesco, noi ci siamo ispirati al testo, diciamo che lo spettacolo racconta, il testo di Ionesco anche racconta di una cittadina tranquilla dove improvvisamente appaiono dei rinoceronti. Gli abitanti del luogo, prima meravigliati, poi pian pianino si trasformano loro stessi in rinoceronti. È uno spettacolo che parla è una metafora sui totalitarismi, ma anche sul razzismo, sul conformismo, insomma, c'è solo un uomo, il protagonista del testo e anche del nostro spettacolo, reagisce e rimane umano. Come vengono accettati? Cioè, se vengono accettati, no? Ci sarà una sorpresa, uno stupore all'inizio. All'inizio c'è uno stupore, ma poi ci si abitua a tutto, e questa è la metafora sui totalitarismi, ci si abitua a tutto, non ci si meraviglia più, e le cose vanno avanti senza troppa reazione, senza troppa meraviglia, e pian pianino tutti diventano rinoceronti. Ci sono tanti riferimenti anche al contemporaneo, anche alla società. Assolutamente, purtroppo. Assolutamente. Non è un caso che abbiamo scelto questo testo. Diciamo che ogni tempo ha il suo fascismo, no? Per cui, insomma, noi abbiamo scelto anche questo testo perché riteniamo che siamo in un momento di addormentamento totale e notiamo dei segni premonitori che non ci piacciono, ecco. Che sì. Non ci piacciono, si tenta di controllare la giustizia, no? Ultime notizie, poi la scuola non viene più, un po' paralizzata, insomma, si distorge un po' l'informazione, insomma, ci sono dei segnali e la nostra società in qualche modo è un po' addormentata. Ecco. Anestetizzata, come spesso anestetizzata, dico. Giusto, certo. Anestetizzata. Thank you. sentono ovunque questi discorsi di adattamento che diventano sempre più vicini alle nefandezze razziste, come ha detto giustamente Andreina, la regista di Rinoceronti, nella scuola, leggiamo le prime pagine, non solo, veramente. E ascoltando un telegiornale, il telegiornale ormai che è diventato, a proposito di propaganda e informazione, ha una voce unica, se vogliamo, in un aspetto che però ci viene presentato come libertà e democrazia, no? L'anestetico è legato a, se vogliamo, anche come viene proposto in alcuni aspetti, le manifestazioni di grande aggregazione sportiva, la totalità di un'anestesia che comprende la spettacolarizzazione di ogni cosa, grandi appuntamenti legati allo spettacolo che sono di bassezza totale per quanto riguarda il contenuto, dove la spettacolarizzazione è portata ai massimi livelli piuttosto. Beh, lo vediamo anche nello sport, per cui. Altro contenuto, quello invece viene riletto nel Mood Groove, quindi prendiamo un po' tutte le rubriche del Breakfast Club, ma siamo in scena questa sera, venerdì 29 marzo alle ore 19, Arena del Sole, Rinoceronti, Sala Thierry Salmon, è liberamente tratto dall'opera di Eugene Ionesco di Festina Lente Teatro, progetto teatro e salute mentale. A questo punto parliamo anche di protagonisti sul palcoscenico. Per quanto riguarda il gruppo di lavoro, invece, come è stato portato in scena? Allora, noi lavoriamo con questo gruppo più o meno, perché è un gruppo aperto, ogni anno c'è un ricambio, diciamo, dal 2002, collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Reggio Emilia. Facciamo parte della rete regionale del progetto Teatro e Salute Mentale, che è appoggiata e sostenuta dall'assessorato alla cultura e dall'assessorato alle politiche della salute, e in questo caso la rete dei teatri della salute valorizza le compagnie che lavorano all'interno in convenzione, in collaborazione con i dipartimenti di salute mentale, portando in giro gli spettacoli nelle stagioni o fuori stagione, o comunque nei teatri della regione Emilia-Romagna. Noi lavoriamo con loro appunto da più di 20 anni, con loro, diciamo, nello specifico di questo spettacolo, crediamo che anche un gruppo che con fragilità e disagio psichico sia forse più capace di altri di raccontare certe storie, no? E di mettersi in gioco per raccontare certe storie. Crediamo che loro sono anche capaci di trasformare il loro dolore in poesia, renderci un po' più consapevoli, ecco, del nostro stato. Cosa hai dato e cosa hai ricevuto durante questo lavoro? Allora, diciamo che alla base del nostro lavoro, ecco, io non voglio curare nessuno, questa è la base. Non, il nostro non è un teatro terapeutico, assolutamente. Sì, come ti dicevo, possiamo portare anche in scena il dolore, la follia, la diversità, ma è un dolore che assolutamente ci riguarda tutti, no? E lavoriamo con le persone, no? La vita e il teatro in qualche modo si contaminano. La scena diventa quasi uno spazio vivo dove tutti tentano di essere veri. È un gruppo di grandissima umanità, dove non esistono giudizi, ci si accetta per quello che si è e si lavora insieme, uniti, per un progetto comune, per in questo caso per portare in scena uno spettacolo. Sono gruppi che danno sempre moltissimo, insomma, anche non solo a me, che mi relaziono ormai con loro da più di 20 anni, ma proprio al pubblico. È un teatro che fa bene sia a chi lo fa, ma fa bene anche a chi lo viene a guardare. Certo, uno scambio, un'interazione continua con una sensibilità molto acuta e allo stesso tempo un argomento di contenuto che non ha solo il contemporaneo, ma un motivo di riflessione importante. Teatro Arena del Sole a Bologna, 29 marzo 2024, ore 19, Rinoceronti, regia di Andreina Garella, qua al telefono con noi, che ringrazio tantissimo per questa conversazione, e avremo modo di risentirci nello spazio dedicato a teatro per Radio Città Fujiko. Grazie e buona giornata. Buona giornata a voi, grazie mille. Quello scarafaggio. Infatti è iniziata tra l'altro con alcune citazioni bugalo alla cucaraccia. Cucaraccia è la traduzione di grande scarafaggio. Il funky dei Miami, che ho voluto appunto per uccidere quel pregiudizio, quella realtà che ci porta a un anestetico costante. Rinoceronti sono presi come iconograficamente immagine per questo lavoro teatrale che sarà, per quanto riguarda l'organizzazione ERT, con Festina Lente Teatro Rinoceronti, in questo caso nella colonna sonora. Invece ho voluto portare in Miami con Kill the Roach, uccidere lo scarafaggio. Molto kafkiano, tra l'altro, come immagine, se vogliamo. Help me, baby. I got the kill. Al merito anche per la produzione, il lavoro, l'impegno. È bellissima la frase, quella che mi ha colpito, che da Andreina Garella: non voglio assolutamente curare nessuno. Ecco, questo dovrebbe essere un filo conduttore che comunque ci porta nella relazione con altre realtà. Anzi, altro che curare, chi ha bisogno di curare? Chi o di curarsi? Tutti ne abbiamo bisogno, tutte e tutti. Visto da vicino, nessuno è normale. Ricordate, alle 8:27 minuti, anzi, chi dice io non ne ho bisogno è quello che ne ha bisogno per primo, secondo me. È un progetto di collaborazione, in collaborazione, come ho detto, onore al merito per questo lavoro che coinvolge un lavoro di inclusione, un lavoro che vede protagonista il Dipartimento di Attività Integrate con Arte, Teatro, Spettacolo, Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Reggio Emilia, esattamente anche Scandiano. Rinoceronti, la regia di Andreina Garella, questa sera al Teatro Arena del Sole a Bologna per ERT alle ore 19. A tra poco!